in questo mondo che pare proprio ormai una palude. Spunti fuori come un'anatra sull'acqua scivoli. Dimmi un po' che oggetto sei, sembri un giocattolo, ma il tuo martello dimmi dai dove lo tieni. Ma il tuo martello dimmi se lo getterai oppure no. Io vorrei proprio che tu mi assomigliassi un po' in questo grande immenso bisogno di amore che ho. Guerra incrociano all'orizzonte e mille dubbi si ammassano nella mia mente che non sa. Dimmi se tu come me giochi con gli angeli oppure anche tu sei in fondo un assassino con gli occhi impauriti e ingenui da bambina che non sa. Io vorrei proprio che tu mi assomigliassi un po' in questo grande immenso bisogno di amore che ho, in questo grande immenso bisogno di amore. Quanti palpiti misteriosi nell'universo, quasi un niente senza nessuno, sempre più perso ormai. Io lo so che anche tu non fai miracoli, ma dimmi che ce l'hai almeno una coscienza. Perché purtroppo io non posso farne senza, proprio no. Io vorrei tanto che tu mi assomigliassi un po' in questo grande immenso bisogno di amore che ho, in questo grande immenso bisogno di amore che ho, in questo grande immenso.